Ehi, giovane, potresti essere qualsiasi cosa nella tua vita. Uno scienziato, un ricercatore, un dottore. Ma perché sprecare il tuo tempo studiando quando basta così poco per diventare minchia? Ecco, di cosa hai bisogno? Una Smart. Un abbonamento per 20 lampade in un centro estetico, un tribale, un totale disgusto per la musica, una lieve analfabetizzazione e una passione smodata per i reality show e per Maria De Filippi. Diventa minchia! E potrai curare la posta di riviste a tiratura nazionale come Visto, Di Più, Diva e Donna. Ieri è toccato a Daniele Interrante, domani potresti essere tu! Cosa aspetti? Diventa minchia! Minchia, e sai cosa sei?